L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, ben ritrovati con l'Altra Europa, il nostro appuntamento settimanale per raccontare l'Europa delle possibilità, delle opportunità, l'Europa delle storie, delle persone, un programma in collaborazione con il network Euronet Plus. Vi ricordo www.euronetplus.eu, portale che vi consiglio di visitare perché raccoglie tantissime inchieste, tantissime notizie in tante lingue diverse, quindi è un bellissimo spaccato della nostra Europa in tutte le sue sfumature. E poi invece le coordinate per trovarci virtualmente: chiocciola Federico Taddia oppure chiocciola Euronet Plus R24 su Twitter e Facebook, lì trovate tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare, o ancora radio24.it, il nostro sito da dove poter ritrovare i contributi extra e scaricare il podcast. Come ogni settimana tante voci, ma è stata una settimana particolare, una settimana che ha visto l'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti, e partiamo proprio da lì. He's the guy who's the talk of the town with the restless gun. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. Sono stati i giorni della sorpresa, i giorni dei commenti, ora le prime analisi, anche se ancora veramente presto, no? Per, insomma, al di là di quelli che sono un po' i saluti di rito per capire quello che succederà. E ci piace però avere un commento più o meno a caldo per capire se è possibile prevedere quelle che saranno, se ci saranno nuovi tipi di reazione tra Europa e Stati Uniti, oppure anche qual è stata, insomma, la prima reazione dell'Europa. E tutto ciò lo facciamo e abbiamo il piacere di averla ancora qui con noi all'Altra Europa, con la rappresentante in Italia della Commissione Europea. Diamo il benvenuto a Beatrice Covassi. Buongiorno Beatrice, ben ritrovata. Salve, ben ritrovati a voi. Allora, ci siamo risvegliati con un nuovo presidente degli Stati Uniti, lo sapevamo perché ovviamente c'erano le elezioni, ci si aspettava che fosse una donna, invece è un uomo, è Donald Trump. Quali sono state le prime reazioni dell'Europa, le reazioni secondo te più significative? Beh, di sicuro c'è stata una certa sorpresa che serpeggiava, perché comunque fino all'ultimo, questo è stato ampiamente analizzato, ma c'era tutta l'aspettativa dai sondaggi che Clinton fosse in vantaggio, quindi da questo punto di vista è stato una sorpresa abbastanza forte. Per quanto riguarda poi la sostanza, in realtà ci siamo subito rapportati come Unione Europea con il nuovo presidente eletto, come di prassi, diciamo, e il presidente Juncker e Tusk hanno scritto una lettera congiunta che sottolinea l'importanza ovviamente del partenariato strategico, che è un partenariato che va al di là delle singole presidenze, e dei valori che abbiamo condivisi con gli Stati Uniti, quindi libertà, democrazia, fiducia nell'economia di mercato, ma anche sottolineando l'importanza del trattato commerciale transatlantico, il famoso TTIP. Certo. Ed invitando subito il nuovo presidente a venire a recarsi in Europa per un vertice USA-UE appena non fosse possibile. Quindi questa è stata la reazione, diciamo, ufficiale, immediata da parte delle nostre istituzioni. Poi particolare euforia da quelle frange europee, non tanto europeiste, no? Insomma, il primo commento è stato di Marine Le Pen, ma lo stesso Salvini in Italia. Insomma, loro hanno esultato. Questa cosa ti preoccupa? Ma diciamo, questa cosa la leggo soprattutto in chiave lettura anti-establishment, perché poi alla fine Trump ha vinto come il presidente che era completamente al di fuori dell'establishment determinato. Quindi i movimenti, alcuni movimenti anti-europeisti, alcuni movimenti più o meno populisti europei, hanno colto più questa chiave, direi, di, se vuoi, contro l'alt-cancio, cioè risettiamo tutto, no? Ripartiamo da zero e andiamo contro l'establishment, che non francamente dei particolari toni anti-europeisti della campagna elettorale, che io non ho colto e che non ci sono stati. Certo. Beatrice, tu conosci molto bene gli Stati Uniti, se non ricordo male sei stata consigliere presso la delegazione dell'Unione Europea proprio sì. negli Stati Uniti. Ecco, gli Stati Uniti quando pensano all'Europa, a cosa pensano? Gli Stati Uniti non pensano tantissimo all'Europa, questa è stata la mia impressione, dalla mia esperienza. Gli Stati Uniti guardano molto all'Asia e guardano molto anche al partenariato appunto pacifico, ma meno all'Europa. C'è un'amicizia di lunga data, sono partner strategici, non lo dimentichiamo, abbiamo comunque dei legami che siano commerciali, culturali, di scambi reciproci che ovviamente sono fortissimi, ma in questa fase storica forse mi viene da dire guardano più ad altri continenti che non a quello europeo. Mm-hmm. Insomma, vediamo quindi cosa accadrà nei prossimi mesi, speriamo appunto che ci siano questi incontri già auspicati e poi insomma siamo qui per raccontare quella che è la nostra bella storia. Grazie davvero, come sempre, a Beatrice Covassi, rappresentante in Italia della Commissione Europea. Buona giornata e buon lavoro, Beatrice. Grazie a voi, a presto. Adesso ci fermiamo, un euro postit, le informazioni per chi sta viaggiando e poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. How can we govern Europe? Siete interessati al futuro politico dell'Europa? Allora attenzione, perché il 17 e il 18 novembre, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, avrà luogo la terza edizione di How Can We Govern Europe? L'importante appuntamento annuale sull'Europa è organizzato da EUNews, giornale italiano per gli affari europei. 50 relatori, tra cui esponenti di governo, rappresentanti dei movimenti europei ed esperti italiani e internazionali, animeranno due giornate di tavole rotonde sui temi politici ed economici più importanti a livello continentale. Il 2017 potrebbe essere l'anno del rinnovamento per il progetto europeo? Su questa e altre questioni si interrogheranno i relatori della conferenza. Programma completo e informazioni sul sito eunews.it. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento l'altra Europa. L'Europa come cultura, l'Europa come mobilità, l'Europa come bellezza, la prossima storia racchiude tutti questi elementi ed è curioso che tutto ciò, un po' scherzando ma forse neanche troppo, inizi con Lady Oscar. Diamo il benvenuto a Chiara Santini. Ciao Chiara. Ciao, buongiorno. Lo so che è più difficile da fischiettare la versione francese perché siamo abituati. Sì, esatto, a quella italiana. Perché quella del Cavalieri del Re è bellissima. Chiara Santini, protagonista ieri di un bellissimo articolo del collega Stefano Montefiori sul Corriere della Sera, dove racconta la tua storia. Tu insegni giardinaggio lì dove c'è il cuore dell'arte, forse del giardinaggio, cioè a Versailles. Sei docente di storia dei giardini, dico bene? Sì. Alla scuola nazionale. Sono una storica. Sei una storica. Come sei finita lì? Beh, è una passione che ho da quando ero veramente piccola. La storia di Lady Oscar fa un po' ridere, ma hai ragione, neanche tanto, perché è cominciata veramente quando avevo 6-7 anni. Mm-hmm. E poi ho questa passione mi ha portato a leggere molto, a essere una bambina particolarmente interessata alla storia di Francia, a imparare il francese e a fare i miei studi finalizzati un giorno a arrivare in Francia. Io volevo vivere a Parigi e lavorare al castello di Versailles. Insomma, quindi obiettivo raggiunto, sei di Cesena, hai studiato all'Università di Bologna, hai fatto un Erasmus. Leggendo la tua intervista ci sono degli elementi che mi hanno particolarmente colpito. Proprio questa settimana ci sono iniziate le celebrazioni per i 30 anni dell'Erasmus, tantissime testimonianze di chi dice: a me l'Erasmus ha cambiato la vita. Tu hai fatto l'Erasmus, hai vissuto questa esperienza, però era finalizzata ad altro, no? Al tuo obiettivo finale. Cosa significa per te la mobilità? Ti senti un cervello in fuga? No, io ho fatto l'Erasmus perché era un'ottima occasione per studiare in Francia e studiare a Parigi. Ho fatto l'Erasmus perché volevo studiare a Parigi e perché speravo un giorno di poter stabilirmi a Parigi e lavorare lì. A me ha cambiato la vita perché è stato un incontro bellissimo con l'università francese, dove ho continuato poi a formarmi in parallelo con quella italiana e che mi ha permesso in seguito di avere i titoli per poter fare un concorso pubblico in Francia. Quindi per te l'Europa, lo spirito europeo è questo, insomma una grande opportunità per poter seguire il tuo sogno, mi pare di interpretare, sì, almeno dal tuo percorso. Assolutamente sì. E cosa si vive di europeo insegnando storia dei giardini? È tutta la cultura europea. Intanto una cosa bellissima della storia dei giardini è che l'arte dei giardini è un'arte della pace, perché si evolve e si esprime al massimo delle sue qualità solamente in tempi di pace. Quando io sono una storica modernista, quindi mi occupo di periodo che va fino all'Ottocento, e quando non ci sono guerre e le ricchezze dello Stato non sono investite nella guerra, i re, i principi e le elite investono nei giardini, e poi, che poi diverranno i giardini pubblici. Quindi c'è di europeo perché c'è una enorme circolazione dei saperi, delle tecniche, della letteratura che descrive i giardini. Quindi in fondo l'arte dei giardini è un'arte, non esiste il giardino italiano e il giardino francese in quanto tale, ma è una commistione di tanti saperi, tante arti che poi in certi momenti storici, in certi paesi hanno dato forme più o meno conosciute, sono espressi in forme più o meno conosciute. Quindi è una bella immagine dell'Europa in cui tutto circola sempre. Dove c'è spazio anche per la bellezza, per l'eleganza, per l'equilibrio, anche per la creatività. Sì. Assolutamente. Allora, i fontanieri, per esempio, i più importanti fontanieri del castello di Versailles erano italiani, una famiglia toscana, i Francini, che sono poi naturalizzati in Francia, divenendo Francine, e sono loro che hanno insegnato le tecniche idrauliche ai fontanieri francesi. Ci sono giardinieri francesi che hanno lavorato in giardini italiani. Insomma, questo proprio per dare l'idea, no, del concetto di contaminazione. Cosa provi ogni giorno quando vai al lavoro e il tuo luogo di lavoro è un castello? Quando vuoi prendere la pausa pranzo la fai ai giardini di Versailles? Cosa si vive? Allora, rido da sola perché è talmente bello quando lo sento anche raccontare da un altro. La mia scuola è dentro i giardini di Versailles. Noi siamo nel potager, che era l'orto reale, e tutti gli edifici della scuola sono attorno a quest'orto. Quindi il mio studio ha delle grandi finestre che danno su quest'orto del 600, e effettivamente tutti noi, studenti compresi, quando è bel tempo, prendiamo la nostra pausa pranzo in questo giardino assolutamente straordinario. Siamo circondati sempre dalla bellezza. Sì, credo che sia un bel incentivo. Complimenti davvero, Chiara, per la tua professione. Hai realizzato il tuo sogno? Hai altri obiettivi? Sì, il dramma di realizzare i propri sogni è che dopo ti si chiede cosa si fa. Ma in realtà, ora io sono ricercatore alla scuola di Versailles, ho cominciato a lavorare anche sui giardini parigini, quindi i miei prossimi obiettivi sono la pubblicazione di un libro sui giardini di Parigi nell'Ottocento, che sono tutta una storia ancora da raccontare, una bellissima storia di raccontare, e che non è mai stata veramente studiata fino in fondo. Quindi questo è il mio nuovo obiettivo. E tu hai il pollice verde? Io, come dicono i miei amici, ho il pollice nero. Nel senso che ci provo disperatamente, fortunatamente ho tanti amici botanici che mi aiutano, ma fondamentalmente sono uno storico, quindi se no, l'architettura e la storia dei giardini, non tanto il giardinaggio, insomma, in quanto arte pratica. Insomma, un'ottima giustificazione, fai bene a giocartela. Un grazie, esatto. Complimenti, grazie davvero. Ciao Chiara, buon grazie. Sabato. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Europost-it. Svee in Ucraina sulle iniziative europee da dicembre. Hai tra i 22 e i 30 anni e sei interessato a un'esperienza di lavoro volontario all'estero? L'associazione Scambi Europei è urgentemente alla ricerca di un candidato per un bellissimo progetto di volontariato internazionale Svee in Ucraina sulle iniziative europee. Il progetto avrà una durata semestrale da dicembre a luglio. Compito del volontario sarà la diffusione presso i giovani ucraini di informazioni su progetti e iniziative europee e sui processi di integrazione dell'Unione Europea, in modo da favorire un apprendimento interculturale. Vitto e alloggio, così come parte del viaggio, saranno rimborsati. Le candidature dovranno essere inviate entro il 15 novembre, seguendo le istruzioni riportate nella sezione SVE in Ucraina del sito scambieuropei.info. Ancora cultura, ancora contaminazione con un progetto che si sta attuando in questi giorni. Per la prima volta in Italia si chiama Museo Mix, iniziato ieri fino al 13 novembre, quindi insomma il fine settimana vede coinvolto il Museo Tolomeo di Bologna, il Museo Carlo Zauli di Faenza, il Museo del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara, al Caos, il Centro Ortio-Opificio Siri di Terni. Tutto ciò in contemporanea con altri 13 luoghi nel mondo. Che cos'è Museo Mix? Ce lo spiega Elena Bertelli di BAM, Strategie Culturali, che è una delle realtà che coordina Museo Mix e che l'ha portato appunto in Italia. Ciao Elena, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, grazie, ciao a tutti. Allora, che cos'è questo Museo Mix? Proviamo in poche parole, è sempre un po' difficile all'inizio. Si tratta di una maratona creativa, la chiamano Makeathon perché ha a che fare con la costruzione di oggetti. Di fatto è un evento di 3 giorni che avviene all'interno del museo e che ospita delle equip di professionisti, tra maker, designer, programmatori, comunicatori, mediatori culturali ed esperti delle collezioni dei musei che lavorano insieme per progettare dei prototipi innovativi che l'ultimo giorno, quindi si parte il venerdì e si finisce la domenica, vengono proprio installati nel museo e il pubblico è chiamato a testarli dal vivo. Insomma, quindi è una maratona creativa e innovativa. Che prende spunto, credo sia nata in Francia, se non erro. Sì, esatto. E appunto da un'esperienza francese, che l'idea è proprio quella un po' di reinventare e riconnettere tra loro situazioni apparentemente, anche con pregiudizi, stantie, ferme, statiche, invece si vanno a rimescolare i contenuti e i contenitori. Esattamente, infatti il Museo Mix è nato 6 anni fa in Francia e si è esteso un po' in tutto il mondo proprio con l'idea di remixare il museo e la collezione, portando all'interno del museo competenze nuove, nuove tecnologie, in quanto nei musei in questi giorni si sono installati delle vere e proprie officine che hanno le stampanti 3D, hanno dei tavoloni per il bricolage, quindi qualcosa che di solito non si vede, quantomeno nei musei italiani. Dal Canada, passando per il Belgio, la Svizzera, la Francia, si arriva per la prima volta in Italia. Infatti Elena, hai detto, insomma, credo che tu abbia toccato un punto importante, voi vi state confrontando, vi siete confrontati anche in questi mesi con realtà straniere, c'è più l'attitudine o l'abitudine all'estero a vedere il museo come un luogo vivo, come un luogo che può cambiare? Sì, più o meno è così, nel senso che già il fatto che in Francia sia da 5 anni che c'è questo evento e sta già subendo delle variazioni nel corso degli anni, un'evoluzione, la dice lunga. In Italia mancava e crediamo che sia importante invece, anche perché dietro Museo Mix c'è un lungo lavoro di mesi di preparazione che porta già a un seme di cambiamento nei musei, che sono costretti a cambiare i propri spazi, alcuni hanno dovuto installare il wifi che non avevano, piccole cose che però sono grandi passi anche nell'ottica della partecipazione, si allargano gli staff dei musei, arrivano volontari e da musei fatti di 3 persone in questi giorni vediamo ventine di partecipanti che integrano uno staff magari un po' più povero, insomma. Tutto il programma lo trovate a questo indirizzo internet che è museomix.it. Un grazie Elena Bertelli, buon weekend, buon remix, ciao, buon sabato. Ciao. Adesso ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra. L'altra Europa. Il sorriso regalato a quel passante, un paragrafo di una pagina qualunque. La storia è un equilibrio tra le fonti, il disegno che compare unendo i punti, un patto firmato, un bacio non dato, il futuro che cambia. È una somma di piccole cose, una somma di piccole cose. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, @ Federico Taddia su Twitter e Facebook se volete contattarmi, oppure l'altra Europa @radio24.it se volete entrare in contatto con la nostra redazione. Forse avete riconosciuto la sua voce, sicuramente avete riconosciuto la sua poesia, è Niccolò Fabi ed è lui che ci accompagna ora in giro per l'Europa. Ciao Niccolò, buon sabato. Ciao Federico, buongiorno, ciao. Allora, sei in viaggio ormai da un po' di giorni, hai debuttato il 27 ottobre all'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, questo viaggio attraverso l'Europa. Come sta andando intanto? Quale immagine hai raccolto di questa travagliata Europa? Una bella domanda. È ovvio che dal punto di vista delle persone che ho incontrato in occasione dei concerti, inutile dirlo, insomma, la maggior parte sono degli espatriati italiani, e quindi la prima cosa che mi verrebbe da dirti è il loro stato d'animo, insomma, che è la cosa che mi colpisce di più, cioè che è uno stato d'animo mescolato, fatto di grandissima speranza, di grandissima determinazione nel qualche modo nell'allontanarsi dalle proprie sicurezze, dalle proprie origini, quasi sempre però mescolato appunto con un po' di nostalgia, perché c'è una parte del nostro paese che gli manca, evidentemente non tutta, però loro sono un buono specchio del nostro paese, perché ti sanno dire con la sufficiente freddezza e distacco le cose che da noi funzionano meno, e allo stesso tempo proprio da lontano invece vedono anche gli aspetti che romanticamente sono più forti, quindi è un bel periscopio anche sul nostro paese, paradossalmente, girare l'Europa. Assolutamente, Bruxelles il cuore dell'Europa, poi hai fatto Amsterdam, hai fatto Parigi, hai fatto Oxford, Londra, Oxford, Berlino, andrai a Vienna, Berlino e a Lugano, quindi hai visto veramente tante facce di questa Europa. Tra l'altro eri a Berlino proprio il giorno in cui era l'anniversario della caduta del muro ed era anche il giorno dell'elezione del nuovo presidente statunitense, credo che sia stata una bella emozione. Sì, Effettivamente è stata una coincidenza molto particolare, cioè non mettere insieme, senza entrare ovviamente, cioè, non abbiamo tempo nello specifico, poi soprattutto delle elezioni di Trump, però diciamo anche così grossolanamente mettere insieme due momenti molto opposti, cioè un momento di grande illusione, quella che abbiamo tutti noi vissuto romanticamente con la caduta del muro, e la sensazione un po' più di disillusione che viene da questo aspetto dell'America che magari ci rende un pochino più perplessi, diciamo così, senza entrare nel mezzo. Quindi effettivamente la coincidenza di questi due eventi è stata abbastanza forte, però beh, anche questo è un regalo di questo viaggio che ho fatto. Nicolò, dal punto di vista artistico, per un cantautore come te, un tour europeo è mettersi ovviamente alla prova, no? È contaminare anche le proprie sonorità con culture altre, ma è anche fonte di ispirazione per lavori successivi? Sì, sì, principalmente quello, nel senso che ovviamente la principale attività è quella di osservare, di girare, di viaggiare con gli occhi, che solamente il viaggio ti trasforma in maniera così curiosa, no? Quindi sì, credo che il bagaglio di sensazioni che porterò a casa sarà enorme, punti di partenza per riflessioni che già ovviamente sono cominciate e che magari finiranno potenzialmente anche nuovi scritti, non lo so, me lo auguro. Poi dal punto di vista dell'incontro, viaggiare è sempre, no, come la vita, l'arte dell'incontro, quindi sono degli incontri, delle persone che possono regalarti visuali diversi, non solo musicalmente. Poi c'è anche stato qualche incontro musicale che chissà, magari potrebbe anche, no, concretizzarsi in qualcosa. L'importante è muoversi, ovviamente rimanendo chiusi a proteggere i propri confini, non si ottiene mai nulla. Questa è il grande regalo del viaggio. Tu avevi fatto l'Erasmus durante l'università? Purtroppo no, guarda, ogni volta che faccio questi viaggi mi rendo conto che forse la più grande mia, la grande più recriminazione proprio, rimorso sulla mia vita è proprio non aver avuto in un momento specifico il coraggio, la forza di cercare di fare quell'esperienza lì, cioè dell'anno fuori durante il periodo universitario. Poi è vero, io studiavo letteratura italiana, c'avevo il gruppo, e quindi un anno fuori avrebbe significato un po' di rallentamento, la musica in quel senso non ha giocato a favore, e quindi come se adesso mi stesse restituendo quello che mi aveva negato 25 anni fa. Certo. Nicolò, Parigi è un po' l'emblema, no, dell'Europa, anche sotto attacco, dell'Europa insanguinata. È stata un'emozione particolare quella di suonare a Parigi rispetto ad altre città? Assolutamente sì. Lo dico senza, spero, tornare retorica, però è vero, al di là poi del rapporto un po' che tutti noi viaggiatori del furgone avevamo con Parigi, che ci rendiamo conto, sì, come dicevi tu, molto simbolica, no, anche delle lotte per la libertà, l'indipendenza, insomma, europea, e ovviamente entrare in un club di musica, in un luogo di festa musicale, dopo il Bataclan, evidentemente è un'emozione speciale. Più o meno tutti noi che suoniamo abbiamo vissuto come particolarmente, no, vicina alla nostra potenziale quotidianità quella grossa e violenta intromissione, no, della violenza, certo, nel momento in cui la gioia doveva essere l'unica emozione provata. E quindi sì, è stato molto forte, credo che l'abbiamo sentito tutti, sia noi che suonavamo che le persone che erano presenti, e anche siamo andati a fare un piccolo aperitivo nel bar, il Carillon, metà di un altro attentato, per vedere così emotivamente come la vita ricominci, e loro, i francesi, in questo sono sempre molto forti, c'è poco da fare, hanno un senso di appartenenza che noi non abbiamo, che abbiamo solamente in piccoli momenti straordinari della nostra vita sociale. Grazie davvero a Nicolò Fabi, una somma di piccole cose. Ricordiamo ancora due date di questo tour, europeo, ma dal 7 dicembre riparte anche il tour teatrale in Italia con tante tappe, quindi la possibilità di gustarsi ancora questo concerto. Ricordiamo, una somma di piccole cose, tra l'altro vincitore della targa Tenco 2016, quindi davvero tante soddisfazioni. Complimenti Nicolò e grazie per essere stato con noi. Grazie Federico, grazie a tutti voi. Ciao, un abbraccio. Ciao, buon sabato. In prima persona le istituzioni europee per comprenderle al meglio, questa è la finalità di MEUT 2016. Stiamo bussando per entrare al Parlamento europeo di Strasburgo, ma lo stiamo facendo in maniera simulata perché in verità stiamo entrando presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento, dove in questi giorni fino ad oggi si stanno simulando proprio i lavori all'interno del Parlamento europeo per capire come si discute una proposta di legge, come si cerca il compromesso, come si va ai voti. Abbiamo con noi due dei protagonisti di tutto ciò. Diamo il benvenuto ad Elisa Condini, coordinatrice dello staff di MEUT. Ciao Elisa. Ciao a tutti. E Marco Vento, che me lo presenta come ministro della Polonia. Ciao Marco. Sì, esatto. Ciao. Allora, tu Marco sei in verità uno studente universitario di Palermo, però in questo grande gioco di ruolo vesti i panni di un ministro polacco, se ho capito bene, giusto? Sì, esatto. Io studio qua a Trento e sono ministro della Polonia. Che è quindi insomma un ruolo impegnativo. Elisa, come mai questa scelta di mettere in gioco il Parlamento europeo? Ma allora, alcuni membri della nostra organizzazione avevano partecipato a eventi simili che si tengono in vari paesi europei, in quanto è considerata comunque un'iniziativa molto importante dove si può imparare appunto come funzionano le istituzioni, oltre che a mettersi alla prova e in gioco ovviamente per provare. Ma quanto è gioco e quanto è realtà? Nel senso che lavorate, simulate su materiali reali, sì. Materiali veri? In questi giorni infatti in Parlamento e in Consiglio si stanno discutendo due proposte che sono state veramente presentate nelle istituzioni europee: un regolamento che riguarda l'Eurosur, quindi un controllo dei confini europei, quindi sull'immigrazione, e una direttiva sulla gender balance nel CDA delle società quotate in borsa. Ok, quindi insomma la realtà di Strasburgo traslata a Trento. Elisa e Marco, ci fermiamo un attimo e lasciamo lo spazio alle informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo da voi per capire nel concreto cosa sta accadendo in queste ore. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta L'altra Europa. Eccoci qua ancora con L'altra Europa, siamo in collegamento con l'Università di Trento, dove si sta tenendo questa esperienza di Model European Union, una simulazione del funzionamento del Parlamento europeo. 99 studenti che per due giorni giocano seriamente, perché come abbiamo ascoltato prima utilizzano procedure reali e soprattutto utilizzano documenti e proposte che sono passate per il Parlamento. Elisa Condini e Marco Vento con noi. Marco, tu sei uno, appunto, sei ministro della Polonia, quindi sei uno degli studenti che sta simulando questo ruolo. Quali sono le dinamiche? Ci si crede di far parte del Parlamento europeo? Come se ci si crede. In questo caso io sono all'interno del Consiglio europeo, cioè insieme dei ministri dell'Unione europea, ci stiamo dando battaglia su l'Eurosur, che sarebbe il sistema di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea. All'interno di questa simulazione si creano le stesse dinamiche, le stesse alleanze che si creano nel Consiglio normale. Ok. Marco, qual è la prima reazione? Nel senso, si prende consapevolezza del perché sia complicato poi far funzionare tutta la macchina, o al contrario ci si dice accidenti, basterebbe un po' di impegno e si potrebbe veramente fare tanto? Guarda, secondo me la risposta è in tutte e due le due domande, perché è molto complicato ed è giusto che sia così, perché si tratta di pur sempre un insieme di paesi ed è quindi difficile trovare degli accordi. È pur vero però che basterebbe forse sì un pochino di impegno, un pochino di problem solving per appunto cercare di risolvere dei problemi che per noi sono più... A noi sembra di facile soluzione, mentre a quanto pare per i ministri veri non è così. Marco, conoscere meglio le istituzioni aiuta ad amare, ad apprezzare un po' di più questa Europa? Io sono un profondo europeista e far parte di questa simulazione per me è un sogno, era quasi. Sono un profondo europeista, nonostante questo sono il ministro della Polonia e penso sia utile per me far parte di un gruppo di paesi che non è europeista, come appunto la Polonia, come forse già un po' si sa. Mm-hmm. Questo mi ha permesso di capire meglio appunto anche le dinamiche e i motivi per cui paesi come la Polonia non sono favorevoli all'Unione Europea, come invece l'Italia. meutrento.wixsite.com, questo è il sito per conoscere quello che sta accadendo a Trento. Ciao Marco, intanto grazie, in bocca al lupo per queste ore rimaste di lavoro. Elisa, tutto ciò si concluderà con la produzione di un documento? Sì, faremo una relazione un po' di quanto è successo e vedremo a che punto, come si saranno messi d'accordo i ministri e il Parlamento, e se il Parlamento accetta quello che i ministri dicono e viceversa. E comunque il tutto verrà scritto su un giornalino ufficiale che racconta appunto tutti gli eventi che sono successi in questi giorni. Perfetto, quindi lo scopriremo dalla stampa, certo, di settore. Grazie, complimenti, in bocca al lupo. Grazie. Ciao, buon sabato, ciao ciao, ciao. Andiamo a chiudere questa puntata con uno sguardo oltre l'Europa, e non è solo l'Europa che guarda gli Stati Uniti, come abbiamo aperto la puntata di oggi, una puntata dove abbiamo parlato tanto di ponti, di incontri, di contaminazione culturale, e tutto questo c'è anche nel progetto che vi andiamo a raccontare, un progetto che ci porta in Kurdistan. Con noi c'è Luca Cafania di Un Ponte Per, l'associazione, una delle associazioni che promuove questo progetto insieme ad Arci Toscana, insieme a Unione Europea e ad altri enti che credo adesso Luca ci andrà a ricordare. Ciao Luca. Ciao, ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Luca, in questo momento dove ti trovi di preciso? Io mi trovo in questo momento a Sulaymaniyah, che è una città del nord-est dell'Iraq, precisamente nel Kurdistan iracheno, e sono all'interno del monastero di Deir Maryam al-Hadra, che è un monastero cristiano, all'interno del quale c'è uno dei centri giovanili che è un Ponte Per, assieme ad Arci Toscana, assieme alla Chiesa Valdese, alla provincia autonoma di Trento e Bolzano, finanzia e gestisce poi concretamente nel territorio. In questo monastero, in questo centro giovanile, in questi giorni siamo venuti assieme ad una delegazione di ragazzi italiani per mettere, diciamo, in pratica un'attività di interscambio e di incontro tra diverse culture. Siamo arrivati in 16 tra ragazzi dell'Arci e di Ponte per incontrare delle delegazioni di giovani iracheni che attraversano i vari centri giovanili del Kurdistan, che sono attivisti, che sono giovani che fanno parte di differenti comunità. Ci sono arabi, curdi, assiri, ezidi, musulmani e cristiani. All'interno di questa settimana di workshop abbiamo cercato di mettere in pratica un piccolo esperimento, sì, che è un piccolo esperimento di dialogo. Dialogo tra diverse culture, tra diverse identità e tra diverse comunità. Assieme a questi ragazzi costruendo un network, una rete, che appunto appunto costruirà un lavoro di campagne, di piattaforme comuni tra Iraq e Italia, con un obiettivo molto preciso, quello del dialogo, quello dell'interculturalità, quello dell'integrazione e anche quello di sfatare un'immagine che sia dell'Iraq, no? In questi giorni drammatici dell'offensiva su Mosul, l'immagine che l'Iraq sia un paese in guerra. Sicuramente è un paese in guerra, è un paese molto complicato, ma è un paese in cui ci sono tanti giovani che lavorano per costruire dei ponti e per abbattere i muri dell'odio. Quindi avete colto segnali di speranza? Certo, qui ci sono. Beh, qui è un ponte per presente dal 91, siamo un'organizzazione che lavora fianco a fianco con la società civile irachena. E sicuramente ci sono i segnali di speranza, perché quando parliamo con questi ragazzi, che molti dei quali sono magari sfollati, sono scappati da Daesh e sono stati costretti a fuggire, a abbandonare le proprie comunità. Vediamo nelle loro parole, nelle loro pratiche, tanta voglia di cambiare, di costruire, di rompere le barriere che molto spesso li dividono gli uni dagli altri. Quindi c'è sicuramente un'altra Iraq, no? Che è possibile, un'altra prospettiva che è possibile costruire, e queste cose si fanno attraverso un paio di sperimentazioni come questa, cioè incontro, dialogo, interculturalità, voglia di stare, anche voglia di stare assieme, voglia certo. di conoscere. Di mettersi, no? In gioco, certo. Un pontepere.it è il sito per conoscere tutte le attività dell'associazione e anche questa in particolare. Un grazie a Luca Cafagna, questo racconto dell'altra Iraq con cui chiudiamo l'altra Europa. Ciao Luca, buon lavoro a te e a tutti i ragazzi. Grazie, ciao, grazie a voi. Un grazie anche a voi per essere stati invece in nostra compagnia. Un grazie a Roberta Frisani, alla parte tecnica, a Miriam Lucchetti e a Silvia Righini che con me hanno scritto la puntata. L'altra Europa @radio24.it, il nostro indirizzo di posta elettronica, oppure ci potete riascoltare scaricando il podcast dal nostro sito radio24.it. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia. L'altra Europa. In collaborazione con Euronet Plus.